Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento in questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora, capita che quando compriamo qualche cosa di elettronico, ogni tanto questa cosa si rompe, no? Ed è un problema, perché allora inizi a scartabellare, a cercare intanto dove devi importare la cosa in assistenza. Quando l'hai comprata, se trovi lo scontrino, se avevi fatto la fotocopia prima che lo scontrino si sia cancellato, perché ormai sappiamo che alla luce del sole con la carta termica si perde la stampa. Insomma, porti questo prodotto a riparare e magari poi passano mesi e mesi prima che ti venga restituito. Proprio di questo parliamo ora. Sì, Francesco, ne raccontiamo una, ma in realtà è emblematica ed esemplificativa di tante altre vicende, magari di impatto minore, che ci capitano o che ci vengono segnalate. Perché devo dirti che come associazione riceviamo spessissimo direi la telefonata di qualcuno che ci chiede cosa si può fare per riavere indietro un proprio strumento, un proprio oggetto elettronico solitamente portato in assistenza, e che in assistenza ci sta settimane, mesi, se non addirittura anni, ma comunque andiamo un po' oltre. In ogni caso è una situazione che si ripete spessissimo e per la quale, tra le altre cose, purtroppo non esiste una legislazione specifica, perché ecco, diciamo che l'assistenza ha l'obbligo di tenere per legge l'oggetto in tempo che viene definito congruo, e capisci Francesco che i tempi congrui insomma è difficile definirli, sì, o stabilirli. Bisogna capire il tempo congruo se è per chi deve riparare l'oggetto o è un tempo congruo per chi invece l'oggetto lo vorrebbe riparato. Bravissimo, tra l'altro credo che ognuno di noi, insomma tanti di noi, abbiano vissuto delle esperienze in cui questo tempo congruo insomma sembra un tempo eccessivo per almeno il guasto che abbiamo identificato noi. Dopo chiaramente magari non siamo esperti. Certo che appunto l'avventura, la disavventura invece vissuta da un nostro socio, un 44enne operaio di Mira, è l'esempio di una situazione che va un po' oltre i tempi congrui, nel senso che lui ha acquistato tramite internet, quindi sul web, un telefonino che lui insomma sognava, che era un Samsung Galaxy. L'ha trovato anche a un prezzo che lui ha considerato soddisfacente, cioè è riuscito a portarselo a casa per 340 euro comprensivo del trasporto, solo che questo telefonino gli è arrivato a settembre 2015, ha potuto appunto usarlo qualche mese, poi l'ha portato in assistenza a gennaio perché aveva un semplice problema al viva voce, e quindi insomma ecco, sicuramente si attendeva che il problema del telefonino venisse risolto in poco tempo, e invece qua è iniziata un po' la sua avventura, perché questa persona dopo un mese circa è andata a ritirarlo. Lui aveva portato il telefono in assistenza a Mestre, però ricordiamo che poi dall'assistenza poi il telefono è andato in giro per l'Italia, insomma in altri luoghi dove teoricamente doveva essere aggiustato. Diciamo che dopo un mese è ritornato e presentava lo stesso problema. La persona con una certa pazienza lo ha riportato, ha aspettato un altro mese, gliel'hanno restituito e il viva voce continuava ancora ad essere rotto. Per la terza volta l'ha riportato in assistenza, l'assistenza l'ha ripreso ovviamente, l'ha rimandato nei vari centri Samsung da Roma a Catanzaro, adesso esattamente non sappiamo dove sia finito questo telefono, insomma te l'ha fatto breve, è ritornato e questo telefono continuava ad avere lo stesso problema. Questa situazione è successa altre tre volte, quindi per sei volte il nostro socio ha portato in assistenza questo telefonino con un problema al viva voce, in realtà un problema che almeno all'apparenza sembrava risolvibile, e anche l'ultima volta è stato restituito rotto, con il guasto per cui era stato portato in assistenza. A quel punto lì, a viva voce, diciamo che è ora di smetterla. Allora, diciamo che il nostro socio, che è una persona tra l'altro che non si fa diciamo mettere i piedi in testa assolutamente, ha scritto alla Samsung una lettera indignata, nella quale tra l'altro ha sottolineato una cosa, Francesco, per la quale insomma penso siamo tutti d'accordo, forse la Samsung avrebbe fatto prima, che gli sarebbe costato meno, sostituirgli il telefonino direttamente. Probabilmente ha speso di più a mandarlo in giro per l'Italia, avrebbe fatto prima a sostituirlo. Invece, alla legittima richiesta del nostro socio per una sostituzione dell'apparecchio, la Samsung ha risposto, diciamo anche giustamente, che quella era a discrezione loro, cioè potevano decidere loro se continuare a tentare di aggiustarlo oppure se sostituirlo o meno. Diciamo che la Samsung in questo caso ha perseverato a mandarmi nell'assistenza. Tra l'altro, Francesco, diciamo che il problema non è ancora stato risolto, non per niente appunto questo operaio di Mira ha deciso poi di rivolgersi a noi. Lui era già sciolto per altri motivi, si è rivolto al nostro ufficio legale, e tramite il nostro ufficio legale insomma si vuole chiedere alla Samsung la sostituzione dell'apparecchio, sottolineando il disagio di una persona che in buona sostanza ha usato questo telefonino 2 mesi, perché sì, questo anche che resta un po' lascia un po' perplessi. E perso tempo e pazienza. Ha perso tempo, pazienza, sicuramente ore e ore di lavoro, sicuramente adesso ha anche speso dei soldi, anche tra viaggi e tutto, visto che l'ha portata in assistenza per 6 volte da Mira Mestre. Noi, ecco, come Adico, essendo che rispetto a quello che dicevamo all'inizio, cioè il tempo congruo, chiaramente è un tempo che noi non capiamo cosa significhi. Cercheremo di capire, magari anche assieme ai colleghi delle altre associazioni, se sia possibile stabilire realmente dei tempi congrui perché un accessorio elettronico stia in assistenza, almeno un tempo congruo oltre il quale procedere alla sostituzione dell'apparecchio, dello strumento che si è portato bene in assistenza. Ecco, poi raccontaci, Gianluca, come va a finire questa vicenda. In ogni caso speriamo che l'intervento dell'Associazione Difesa Consumatori possa servire a rimettere le cose a posto. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. grazie Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.